Allora eccoci, finalmente, 12ª puntata della seconda stagione di Boca Chica Cosmodromo. Chi l'avrebbe mai detto? No, io l'avrei detto. E io non so. Tra l'altro siamo partiti forse oggi leggermentissimamente in ritardo, ma no, vedo che in realtà l'orario... 21.00. È perfetto, però in realtà era una buona... La servivo un po' sul piatto perché questo ritardo è dato dal fatto che avevamo dei ritardi tecnici perché abbiamo un grande ospite. Eh sì. Un grande ospite, per la prima volta a Boca Chica avremo anche una performance live, vero Bimo? Eh sì, veramente, la prima volta, e vorrei dire che abbiamo un grande ospite e non siamo in ritardo in realtà, quindi dovresti essere contento. Sono molto contento e sono molto contento soprattutto che abbiamo una bellissima sigla. Boca Chica Cosmodromo. Boca Chica Cosmodromo. Sarà vero, facciamo insieme. Lo dici, siamo sempre. Lo prevedevamo, benvenuti alla 12ª puntata di Boca Chica Cosmodrome. E forse questa volta l'ho detto bene, devo dire che l'ho detto. No, non l'hai detto bene, ma Cosmodrome. Ma anche chi se ne frega. No, perché devo ringraziare. Cosmodrome è il. Vabbè, ma a parte il K, a parte il K, io mi fermi, già sarei felice dell'accento. Ma no, lo dicevo in realtà perché vorrei ringraziare una compagna qui del Forte, Alessandra, che comunque ogni volta che mi incontra si mette lì e cerca di insegnarmi come si dice bene. Quindi ringrazio. Le hai dato un adesivo? No, Alessandra non ha avuto l'adesivo, credo che non l'abbia avuto, quindi lo avrà la prossima volta per la sua costanza nel cercare. Me l'ha spiegato molto bene, ma io credo a questo punto di avere un blocco psicologico, quindi Bimo, andiamo, è anche comprensibile. Allora, io non posso non essere con te. Allora, vi ricordo che siamo in diretta su Radio Forte dalle frequenze che emette il CSOA Forte Prenestino di Roma, centro sociale occupato autogestito, e ai comandi qui al solito Bimo e Cobol. Eccoci qua. In studio abbiamo come sempre anche il nostro amatissimo Ray Max. Ciao Ray. Ciao Cobol, Bimo e tutte e tutti. E poi abbiamo anche parte del pubblico che sveleremo più tardi, e soprattutto abbiamo un ospite. Però prima di qualsiasi ospite vi ricordiamo intanto, ecco, un'altra cosa che Alessandra mi faceva giustamente notare. Due adesivi Alessandra, il fatto che noi spesso con nonchalance confondiamo il canale Telegram al gruppo Telegram. Noi cosa abbiamo? Un canale Telegram? Noi abbiamo un gruppo Telegram. Qual è la differenza? Una chat. Allora mi ha spiegato anche la differenza. Tre adesivi. Esatto, la differenza. Tutti. La differenza appunto che un canale, da quello che ho capito, un canale Telegram è monodirezionale, cioè qualcuno parla e gli altri ascoltano. Un gruppo. No, allora abbiamo un gruppo. Noi abbiamo un gruppo, infatti abbiamo un gruppo. Anche perché per nostra natura non possiamo avere un canale. No, assolutamente. Poi tra l'altro, però noi spesso abbiamo rimandato al canale, e questa compagna Alessandra ha cercato il canale, ha detto ma tu stai sto canale, e infatti non esiste. Quindi se cerchi il canale, non, anche con il nome giusto, non trovi il no, gruppo. No, perché è il gruppo. No. Ma sì, forse sì, però lei cercava il canale perché conosceva bene la distinzione. Sì. Quindi pensava esistesse un canale e non solo un gruppo Telegram da cui noi trasmettevamo. Beh, comunque siamo detto tardivamente, servirà probabilmente per la prossima stagione. Vi ricordiamo che sul sito del Forte, forostreprenestino.net, nella slot di Radio Forte, nella slot di Boca Chica, trovate tutte le puntate di questa seconda stagione fino alla 12ª, e soprattutto trovate le puntate precedenti della precedente edizione, dell'edizione 1 di un paio di anni fa, che sono didattiche e molto utili anche per capire tutto ciò che abbiamo detto e fatto in questa seconda stagione. Non le diamo per scontate, a volte le abbiamo ripetute, però insomma quello è assolutamente quando avevamo dei momenti di buio. Esatto. Abbiamo ripetuto quelle puntate precedenti. Un breviarione molto molto utile per capirci qualche cosa di capitalismo spaziale, perché di quello parliamo. Parliamo di espansione del capitalismo, l'abbiamo fatto in una prima stagione in una maniera un po' più rigorosa, in questa seconda stagione siamo stati un po' più farfalloni, ma comunque abbiamo tenuto il punto sulla nostra critica, le nostre proposte alternative alla conquista e all'espansione del capitalismo nello spazio, anche esatto, detta space economy. Tra l'altro tu, Bimo, sei stato molto apprezzato in questa edizione, te lo dico perché per la tua consapevolezza e capacità di raccontare trattati. Ma infatti io sono commosso, non si vedono le lacrime perché è la radio, però io sono commosso. Va bene, allora, come consuetudine di questa seconda stagione, noi partiamo con un brano. Questo brano questa volta forse è l'unico veramente azzeccato, perché non esageriamo. No, ma avremmo azzeccato un altro. Ma avremmo azzeccato un altro, ma questo in realtà aveva una ricaduta precisa, perché il 16 giugno noi abbiamo festeggiato la messa in orbita di Valentina Tereskova. Grande Valentina, è una grandissima festa qui al Forte, se non siete venuti esatto, con razzi ad acqua che partivano e progetti su centinaia progetti su satelliti e altre cose che scopriremo la prossima e ultima puntata. Bene, insomma, quindi sentiamoci un pezzettino proprio di Valentina Tereskova. Anche con il gabbiano, Nikita Khrushchev stabilisce questa affettuosa comunicazione. Posso sentirvi benissimo, dice Khrushchev. Vi chiamano gabbiano, ma con il vostro permesso vi chiamerò semplicemente Valia, o piccola Valentina. Sono felice, Valia, e paternamente orgoglioso che sia stata una nostra ragazza, una ragazza sovietica, a raggiungere per prima lo spazio a bordo di un'astronave costruita con perfezione dai nostri tecnici. Caro Nikita Sergeevich, sono profondamente commossa della vostra attenzione. Molti, molti ringraziamenti per le vostre premure e la vostra paterna cura per quello che sto facendo. Io mi sento benissimo. E dal profondo del cuore ringrazio il popolo sovietico. Per 3 giorni e 3 notti, Valery e Valentina ruotano nello spazio. Senza togliere nulla al merito di Bykovsky, è Valentina a fare notizia. È il suo sorriso, è la ciocca di capelli che si intravede sotto il casco in un primo piano televisivo irradiato in mondovisione a monopolizzare le copertine dei rotocalchi. Per 3 giorni, in tutte le lingue del mondo, gli uomini le dicono buonanotte, Valentina. Una sera, Valentina risponde dalle stelle. Sugli uomini, affaticati dalle lunghe ore di ascolto, l'astronauta Tereskova, dopo aver fatto il consueto rapporto alle basi di terra, fa piovere un tenero buonanotte. Ascoltate. Il cosmonauta Bykovsky invece è ancora sveglio e sta facendo il suo rapporto sull'assetto di volo. Ringrazia tra l'altro Khrushchev per il messaggio di felicitazioni. Il volo di Valery e Valentina si conclude il 19 giugno e comincia subito la kermesse dei viaggi, delle conferenze stampa. Tutto il mondo vuole vedere e conoscere Valentina. Eccola a Cuba, dove un giornalista della Prensa Latina rivolge alla cosmonauta la prima di una serie di domande difficili. In relation with the cosmonauts of the opposite sex, including American cosmonauts, vorrei chiedere a Valentina che cosa prova nei confronti dei cosmonauti di sesso opposto, compresi quelli americani. Grazie. A nas samye khoroshe otnoshenie между мужчинами космонавтами и женщинами космонавтами. Io faccio parte di una grossa e felice famiglia e tra i cosmonauti uomini e me ci sono ottimi rapporti, visto anche che sono la sola della categoria. Ребята являются и те, которые слетали, и те, которые готовятся. Con i ragazzi siamo ottimi amici e ci diamo una mano per qualunque cosa possa servire. Так что никакого унижения мы не чувствуем. Direi che non c'è concorrenza. Si alza una giornalista. Si tratta di un duello sottile, Eva contro Eva. When are you getting married? Quando ha intenzione di sposarsi? After you are married. E una volta sposata e con figli, continuerà a fare la cosmonauta? Quando mi sposerò, lo saprete certamente. È impossibile nascondere qualche cosa ai giornalisti, in qualunque paese. Preferisce sposarsi sulla terra o nello spazio? Dipende da quando mi sposerò. Se dovesse accadere nello spazio, direi che ci sarà spazio sufficiente per sposarsi. E soprattutto non ci sarebbero i giornalisti. Invece i giornalisti ci furono, sia pure a terra, quando Valentina, dopo aver detto il suo tenero da, si avviò verso la luna di miele al braccio del colonnello Nicolai. Beh, bellissimo, bellissimo, Bimo, questo passaggio con la Tereskova, che non so se lo abbiamo detto, comunque fu messa in orbita il 16 giugno del 63, quindi per quello qualche giorno fa è stato festeggiato. Le questo. Hanno chiesto solo di matrimoni. Guarda, poi. Vorrei chiedere scusa a Valentina Tereskova per la domanda delle giornaliste occidentali. Esatto, scusa, esatto, Valentina. Esatto, no, diciamo che la prima forse ci stava pure in realtà, ma la seconda veramente imbarazzante, fuori luogo, vabbè, ma erano chissà Ungaretti cosa l'avrebbe chiesto. Sì, è vero, per chi ci ha seguito sa a cosa ci riferiamo. Insomma, in questa puntata in cui secondo me faremo sentire per la prima volta nella storia di Boca Chica un po' più di musica, io mi avvierei molto velocemente a un pezzo, e abbiamo deciso in questa puntata di riproporvi i pezzi più di successo di questa seconda edizione, i più votati sul nostro gruppo Telegram. Esatto, e sicuramente il pezzo più votato è stato Musica Spaziale, Patrizia Pellegrino, 1983, quindi ribeccatevelo. Thank you. brano in assoluto più quotato e più valutato di questa seconda stagione. Voi non giustamente voi non ve ne siete accorti, ma qui c'è stata una piccola polemica mentre mandavamo in onda questa il saccente Ray. Avete rischiato di dovervi risentire tutti i 45 giri per un attimo. Il saccente Ray, che ho anche smutato, quindi mi può anche rispondere, sosteneva che in realtà non si trattasse di giornalista. Vabbè, non apriamo la polemica, no, la voglio mettere. Se erano sempre occidentali, però se erano cubane o statunitensi, va bene, insomma, forse sentendo domande un po' stupide le ho attribuite io in maniera involontaria agli Stati Uniti, ma va bene, i insomma, cubani non fanno domande stupide, mai. sarebbero stati messi puniti. Allora, beh, insomma, io voglio proseguire una tradizione, a questo punto anche questa, una piccola tradizione che abbiamo aperto la scorsa puntata, che è quella di intravedere in alcune riviste, non esattamente riviste, diciamo, di movimento, però alcuni aspetti peculiari, critici verso il capitalismo spaziale, qualcosa che magari non ci aspetteremmo di trovare in questo tipo di rivista. Allora, intanto io, Bimo, ti voglio chiedere, ma tu che sei un... ci sono tutti e due pezzi. Sì, ecco, non so come dirtelo. È ricominciato. Va bene, ok. Allora, si è alluppato, sono interessante. Credo che ancora, sai? No, adesso. È finito. Va bene, allora, io, Bimo, ti volevo fare questa domanda, visto che tu sei un nerd. Cosa pensi della rivista Wired? Italia. Allora, Wired Italia fa schifo. Ok, basta, mi bastava questo, perché secondo me Wired è stata decente fino a che Rossetto è stato cacciato via. Ok, ma infatti, ma mi bastava quello, perché guarda, non ce l'avevamo anche preparata, ma lo sapevo che saresti stato caustico su Wired, e questo secondo me rafforza ancora più quello che sto per dire, perché in realtà da una rivista, diciamo, un po' di merda, magari non te lo aspetteresti, e se arrivano amici anche di Wired, l'onestà è così. Diciamo che anche se anche Wired arriva a fare questo tipo di riflessione, intanto noi siamo diventati mainstream, significa, perché non c'è, ormai a destra e manca non ci sono che critica al capitalismo spaziale. A questo punto credo che la terza stagione dovrà essere su un altro argomento, perché saremmo potremmo cambiare banali. Idea ed essere diventare dei sostenitori neoliberisti dello spazio, esatto. Comunque, insomma, qualche settimana fa è uscito un articolo che poi comunque linkeremo, anche se non super interessante, diciamo, è più interessante quello, la premessa che ho fatto, insomma, diciamo, il più interessante è il fatto che sia stato stampato su un giornale che è Wired. Poi dentro ci si trovano anche una sintesi di alcune cose interessanti, ma insomma più o meno noi l'abbiamo sviscerate. Oggi che avevamo un po' intenzione di fare una puntata un po' riassuntone delle puntate precedenti, ecco che questo articolo, la volta scorsa parlavamo di Jacobin, ecco che questo articolo su Wired ci viene all'uopo, e in realtà la cosa interessante è che si parte con una critica feroce a Elon Musk. Il pericolo Elon Musk, insomma, anche i neoliberisti, anche i moderati, come vogliamo definirli, anche quelli che scendono a patto, cominciano a vedere un problemino, sì, all'orizzonte. A intravedere un problema in questo imprenditore spaziale, che non è semplicemente un imprenditore spaziale, magari fosse solo un imprenditore spaziale, purtroppo diciamo che si applica ad altri campi non solo, ma diciamo che come uomo più ricco della Terra ha probabilmente una certa influenza, anche al di là del fatto che è un imprenditore spaziale. L'articolo giustamente si... Ma secondo te è più un imprenditore spaziale o più un gigante dei media sociali su internet? Guarda, questa è la solita... Per dire. Secondo me, guarda, questa è secondo me è una dicotomia un po' sorpassata. Quando noi facevamo la prima stagione di Boca Chica potevamo essere ancora indecisi. Noi già eravamo piuttosto critici su Elon Musk e lo additavamo un po' come epifenomeno di questo sistema. Però io credo che a distanza di 2-3 anni, visto il Falcon 9, visto le riduzioni di spese che effettivamente le sue tecnologie hanno portato nella messa in orbita, visto lo Starship, la più grande astronave mai costruita, di cui l'ultimo test è stato positivo, e quindi probabilmente tutti i progetti Artemis che si appoggiano su Starship verranno portati a termine, magari non nelle date previste, viste, ma insomma, quindi la riconquista della Luna, almeno da parte statunitense, non credo si possa più prendere sotto gamba i progetti di questo uomo, che in realtà è un astropreneur, che però intreccia intelligenze artificiali, robotica e quant'altro, e sviluppo interfacce neurali. Esatto, interfacce neurali e interfacce assolutamente di comunicazione, e che quindi ha mani ovunque, un po' troppo ovunque. E questo cominciano a, insomma, diciamo che intanto l'articolo dice una cosa interessante, dice nell'ultimo test di qualche mese fa, di qualche settimana fa, di Starship, in realtà gli ascolti sul test di Starship hanno superato sia gli ascolti, diciamo, sul rientro di Chang'e 6, quindi della missione spaziale cinese che riporta per la prima volta sulla Terra dei campioni lunari, però colti sulla faccia oscura della Luna, quindi insomma un evento abbastanza grande, e poi anche di una missione lanciata, credo, dagli europei sulla ISS. Insomma, comunque anche, diciamo, evidentemente una parte consistente, milioni di persone, diciamo soprattutto occidentali probabilmente, si interessano molto a quello che fa Elon Musk, e Elon Musk è riuscito a riportare nell'agenda setting del quotidiano e anche dell'interesse nazionale e internazionale quelli che sono i viaggi spaziali. Ma insomma, ricordiamo che intanto Elon Musk una delle cose più importanti è sicuramente il fatto che con i suoi razzi, soprattutto col Falcon 9, ancora lo Starship non è ancora messo a punto, però col Falcon 9 è riuscito, per esempio, a far sì che un chilo di carico utile nello spazio, quindi un payload di un chilo nello spazio, non costi più $65,000 come accadeva con lo Space Shuttle, ma ne costi 6,000. Ecco, questa intanto è la prima proporzione. Questo cosa ci dice? Ci dice che i suoi razzi viaggeranno sempre di più e porteranno sempre più in orbita le sue e le altrui merci. D'altro, diciamo, quello che è interessante di questo articolo, in realtà, e questo è il punto interessante, è che non è tanto la questione del monopolismo, cioè lui si sta ponendo come monopolista, però è proprio la politica super aggressiva che Elon Musk sta avendo rispetto a tutti i suoi possibili competitors, sia SpaceX, sia Blue Origin, che è, diciamo, il secondo competitore più grosso, e il primo competitore più grosso sicuramente di SpaceX, ma che sta a miglia di distanza rispetto a SpaceX, ma soprattutto tutte le cosiddette tutte le piccole aziende, tutte le startup che in realtà nascono all'interno della New Space, della Space Economy, vengono sistematicamente boicottate. C'è un movimento di denuncia forte rispetto alle politiche aggressive di Elon Musk. Voglio ricordare solo tre punti intanto dello strapotere di Elon Musk, di questo uomo di Elon Musk. Intanto questo strapotere si è visto soprattutto con Starlink in Ucraina. Abbiamo fatto una puntata la volta scorsa sulle tecnologie ibride. Ne parlavamo anche l'altra volta, cioè il fatto che anche gli ucraini si siano ucraini, si dice, no, penso che ci Remax, come si dice, è il custode della pronuncia. Mi dicono che dipende gli ucraini. Vabbè. Dicono ucraini, vabbè. Vabbè, comunque, vabbè. Diciamo, allora, gli ucraini hanno scoperto a loro spese il fatto che dipendere da una singola persona con i suoi interessi, la sua agenda, in alcune situazioni sia una debolezza più che un punto di forza. Ma questo posizionamento di Musk all'incrocio di una serie di interessi fondamentali per gli Stati Uniti in particolare, quindi sono, abbiamo visto, i lanci a prezzi stracciati. Ma poi c'è anche, tanto non abbiamo detto che con Starlink il prezzo dei payload, quindi dei lanci, dei carichi, diminuirà ancora ulteriormente. Esatto. E cosa che dà a loro un vantaggio enorme rispetto a chi voglia fare il prossimo Starlink, tra l'altro. Ma comunque Musk si trova ad essere cruciale per una questione di lanciatore. Lui è il padrone del lanciatore migliore del mondo in questo momento, strategico per gli interessi degli Stati Uniti, a cui dall'altro si affidano sia Stati Uniti che Europa in questo momento. Sì, l'Europa dovrebbe, l'Ariane 6 dovrebbe cominciare a funzionare tra un po'. No, ancora non ce la fa, e no, diciamo no. la dipendenza sta verso Elon Musk sta crescendo, e questa è una delle preoccupazioni. Dovrebbe lanciare a luglio il primo so che non ce la faranno, non lo so, io leggevo che non c'erano problemi, però comunque, insomma. Però è più è dall'ottica statunitense che è più evidente la situazione. perché appunto dicevamo i lanciatori e va bene, dopodiché una rete di interconnessione che non ha concorrenti nel mondo, migliaia di satelliti, che è una costellazione che non ha attualmente un equivalente nel mondo. Beh, attualmente con il Falcon 9 il 90% nel 2024 il 90% di oggetti messi in orbita, il 90% di oggetti messi in orbita sono messi in orbita da Elon Musk. Esatto. Con Starship lui vorrebbe arrivare al 99%. Esatto. E poi c'è un'altra questione, beh, c'è la questione dei media, l'ex Twitter, adesso ex o X, rimane comunque un punto fermo nella comunicazione soprattutto statunitense ma anche mondiale. Certo. E poi c'è anche la questione automobilistica, non tanto le automobili come veicoli, ma per esempio la rete di rifornimento per macchine elettriche negli Stati Uniti, più grande e più capillare, indovinate di chi è? E quindi c'è una persona singola che si trova all'incrocio tra interessi strategici fondamentali per il suo paese e ha quindi un potere enorme per un singolo. Sì. Voci, sempre ritorniamo sempre all'articolo di Wired che ci dice che voci incontrollate anche nelle stanze dei bottoni statunitensi cominciano ad aver paura di questo uomo. Perché? Perché intanto per tutti i soldi che la NASA ha dato, tra l'altro, come dicevo prima, Starship dovrebbe essere il vettore con cui gli Stati Uniti tornano sulla Luna. In questo momento la prova è il fatto che noi ne facciamo una trasmissione, le posizioni al di fuori della, quindi extra atmosferiche, diventano sempre più importanti, quindi anche la dipendenza con Elon Musk, verso Elon Musk rispetto a questo frangente diventano molto preoccupanti, perché insomma, come dire, Elon Musk è anche un uomo eccentrico e molto capriccioso da questo punto di vista, che forse era anche un po' la cosa a cui ti riferivi tu prima, dicendo sì, è istrionico, certo, molto istrionico, ma purtroppo molto più di quello, nel senso che alcune sue posizioni, per esempio sull'ex Twitter, è difficile chiamarlo X, le sue posizioni su X non suona male, però comunque quello è. Sono veramente veramente veramente inquietanti. Beh, lui insomma, diciamo che l'idea su cui era un po' deriso qualche anno fa, di voler portare entro il 2030 gli umani su Marte, diventa forse con un po' di delay, un po' di ritardo nel tempo, ma insomma diventa sempre... Sì, ormai il fatto che le previsioni temporali di Musk siano tutte sbagliate, no, ma quello... è una, così, un luogo comune giornalistico. Però va anche detto che insomma, come dire, però poi arriva. Per spezzare una lancia, se volessimo spezzare una lancia, potremmo dire che assolutamente sì. Allora io devo dire che intanto sicuramente è tutto molto interessante, perché è più interessante l'idea che effettivamente il monopolio selvaggio che Musk sta tentando di imporre su tutto il mercato extraatmosferico mondiale è qualche cosa in generale di preoccupante. Diciamo che come attitudine io tendo a non voler focalizzare rendere individuo, cioè non mi piace pensare che un sistema possa dipendere da una sola persona, anche se in realtà è vero che noi nel neoliberismo che in qualche modo viviamo e che è tipico di questo tipo di accentramenti molto forti, lui è un elemento coerente. Dopodiché tutta una serie di analisti geopolitici, diciamo che l'analista geopolitico non è un mestiere, è un mestiere che prima del 2022 non esisteva, diciamo, gli analisti geopolitici oggi ci dicono anche, io sentivo delle analisi interessantissime e che diciamo sulla carta sono tutte buone, che stiamo per assistere a quasi una sovietizzazione degli Stati Uniti, perché stiamo andando verso un controllo sempre più forte dello Stato per riacquisire quelli che sono le capacità produttive di un paese che si è solo esclusivamente finanziarizzato in questi anni. In realtà dovrebbe portare a un protezionismo, a un accentramento, un po' alla sovietizzazione in questo senso, un accentramento nelle mani dello Stato di quelli che sono i principi produttivi e le vie produttive da inseguire, soprattutto nella competizione con la Cina. Ecco che allora in questo caso Elon Musk può diventare un personaggio scomodo anche in questo tipo di strategia, ammesso che questa strategia abbia un senso e abbia anche un un vero significato. Ultima cosa che volevo, e poi lascio, poi passiamo un po' di musica e al nostro ospite. L'ultimo fatto, lo dicevamo anche l'altra volta, ne parlavi proprio tu, Bimo. La rete militare, che è Starlink, che in realtà è una rete militare, come si chiama? Starshield, sì. Che è la versione militare. Esatto, la versione militare che Elon Musk sta elaborando insieme al Pentagono, e che in realtà anche lì rende il Pentagono, quindi il centro, il cuore delle decisioni politico-militari statunitensi, dipendenti da un singolo essere. Il Pentagono è già dipendente da Starlink comunque. Attualmente ci sono delle interviste a dei generali statunitensi che rendono questa situazione molto molto evidente. Il budget stanziato per Starlink, per le forze armate americane, viene finito in tempi nulli, bruciato. E quindi viene bruciato, sì, in tempi molto più veloci di quelli previsti, e viene continuamente aumentato, tra l'altro. Sì, sì. E tutto finisce forse nelle tasche di Elon Musk. Sicuramente. cosa abbiamo in scaletta, Bimo? Adesso abbiamo il secondo pezzo. Vai, perfetto, perfetto. Vabbè, insomma, siamo stati sorpresi dalla fine di questo brano. Questo è stato il brano meno votato sul gruppo, col gruppo Telegram. Brevissimo. Questo era Rasgi con Bean Cosmic. Bellissimo. Allora, siamo qui, diciamo, col nostro ospite, Bimo. Tra l'altro si può dire che Bimo sarà un disturbatore di questa performance? Sì, se non mi mena, se non mi prende a chitarrate. Allora, abbiamo, non si è sentito. Ho fatto di tutto nella mia vita, allora, in Vietnam, due o tre volte. E non hai preso a chitarrate nessuno? No, solamente una volta, un coccodrillo. Allora, diciamo, per il gruppo ristretto delle persone che ci conoscono, questa voce sarà inconfondibile. Riproviamo. Solamente un coccodrillo. Allora, felice delle furie elettriche, o di furia elettrica in realtà. Sì, non è che siamo tutti plurali come te. No, spesso però mi piace delle furie elettriche, perché i progetti di Felice sono sempre consiliari, collegiali, insomma. Felice, noi ti abbiamo invitato, grazie di essere venuto, non solo perché ti vogliamo bene e sei un grande artista, ma anche perché tu in realtà ci allieti sempre. Vogliamo svelare questa cosa, che tra Boca Chica Cosmodrome e la ciclofficina del Forte Prenestino esiste un legame, sì. Esiste link. E diciamolo. Sotterraneo. E quindi nelle feste che spesso facciamo anche col nostro Andromalis, con Bimo, con Remax, con tutte le persone, compagni e compagne che ci accompagnano in questa avventura, c'è spessissimo anche Felice, c'è Furia Elettrica, insomma, che ci è venuto a portare un brano di tipo spaziale. Sì, questo mi è stato commissionato circa 2 mesi fa da Cobol. Mi ha consigliato di fare un brano acustico, però anche spaziale. E tu ovviamente hai fatto tutto il contrario. Praticamente sono entrato in blocco creativo perché non riuscivo a coniugare queste due cose e quindi sono sparito dalla comunicazione con Cobol. È vero, è vero. E lui si è un po'... per questo un po' offeso. No, offeso mai, ma diciamo quanto si è preoccupato, piccato, sì. Mi sono piccato. Vabbè, dopodiché mi ha telefonato il procuratore, non il procuratore quello della Repubblica, però il mio procuratore della casa discografica, che è un tipo del vecchio stampo. Quindi telefona da un telefono fisso. Sì, da una cabina. Ha detto non puoi mancare l'appuntamento col gettone. Non puoi mancare l'appuntamento di Boca Chica Cosmodrom perché la tua carriera ne risentirebbe. Quindi eccoti qua. Vabbè, clink, gettone. Però lui voleva conoscere Cobol prima, perché appunto essendo vecchio stampo voleva sapere chi frequento come artista o para-artista. Allora diciamo che per i pochi, intanto tu sei stato in radio anche ieri, insomma per i pochi romani o comunque pubblico che non lo conoscono, perché per almeno pochi, 2 milioni di romani lo conoscono, per i pochi che non lo conoscono lo stiamo presentando stasera, grande artista, Furia Elettrica, e vi lascio alle sue note, come dicevo forse disturbate anche dal nostro Bimo. Felice, grazie. Pure elettrica, grazie, grazie anche all'intervento sapiente di Bimo. Io tra l'altro avrei questa proposta, a parte se a te avvia, ma mentre conteniamo la trasmissione, se a te ti va di tenerci compagnia con un sottofondo progressivo. Però piano, Anche qualche battuta se volete. Ma quello quando vuoi, insomma, okay. Assolutamente. E così noi andiamo avanti. Intanto grazie perché il pezzo era molto bello. Mi ha ridestato atmosfere freak spaziali, Cosmo Freak. Esattamente quello che volevamo. Ci siete riusciti. Anche gli interventi di Bimo erano molto caratterizzanti. Prego, è stato un piacere. Vi siete molto divertiti. Io immagino che da questo momento in poi progetterete trasmissioni così. Esatto, tipo 6 ore. Tanto, voglio dire. Vediamo le chiavi del forte. A questo punto venite abbiamo risolto e trasmettete all'infinito. La programmazione della radio. Esatto, locale, all'infinito. Beh, questo insomma, pezzo si chiamava Fruscio. Comunque, bello. Beh, allora, voglio dire, perfetto. Il titolo era fantastico. Fantastico. Allora io dico. Felice, ci tieni compagnia mentre il nostro Bimo va avanti nella trasmissione, quindi con un sottofondo, sì. Ti lascio sottofondo molto basso così il pubblico può continuare ad apprezzare. Eccoci qua. Abbiamo detto che in qualche modo questa puntata doveva anche essere, che ci piaceva che fosse anche un po' un riassuntone delle puntate precedenti. Esatto. E adesso mi hai preso ovviamente alla sprovvista, ma io adesso mi sto... Ma sì, ti stai attrezzando. Intanto voi sentite in sottofondo Furia Elettrica, che continua con le sue elucubrazioni psichedeliche, space psichedeliche. Ma tu, tra l'altro, Felice, hai mai pensato proprio di dedicarti a questo? Perché ti riesce a bene. A questo genere, sì. In effetti ce l'hai dentro proprio, secondo me. Anche perché potremmo fare dei tour tra Cobol Pongide e Furia Elettrica. Devo dire che io ho passato almeno 4-5 anni post-prandialmente sul divano a ascoltare Klaus Schulze e Tangerine Dream. Ecco, e forse qualcosa mi è rimasto. Forse. Poi però quando i Tangerine Dream hanno comprato il primo strumento digitale li ho abbandonati. Okay. Poi però sono morti quasi tutti, quindi diciamo hai avuto la tua vendetta. Mi fai così cattivo? No, non è cattiveria, questo è... Diciamo che qualcosa ti è rimasto i tuoi amici... Coraggio delle proprie opinioni. Io direi che qualcosa ti è rimasto e i tuoi amici lo subiscono. E comunque da lì poi, meno male che è uscito fuori il nostro John Fox con Metamatic, okay, che ha raccolto l'eredità, secondo me, dei Kraftwerk pienamente, dopodiché anche lui ha sbragato, secondo me, al secondo album. Sì. Vabbè, avremo modo. Faccio io il nerd adesso. Ho dato la tristezza nella mia voce. Comunque, volevo anche dire una cosa riguardo il mio procuratore, posso? Ma certo. Il mio procuratore mi ha lasciato andare. Andromalis. Venire. Sei procurato da Andromalis? No, allora lui abita a Monte Porzio. Quindi, okay, siccome voleva controllare. No, il mio procuratore. Abita a Monte Porzio. L'unico motivo per cui mi ha lasciato venire qui è perché l'ho convinto a immettere la sua persona dentro all'osservatorio di Monte Porzio, quindi da là lui ci vede. Ok. Lui si è autoimmesso. Va bene. E ci controlla. Però oddio, che spavento. Okay. Va bene, Felice. Allora, insomma, va bene, vai col sottofondo. Vado bene così. Sì. Bimo. Eccoci qua. Di che cosa abbiamo parlato in questa bellissima seconda stagione di Boca Chica Cosmodromo, Casmodrome? Vai. Di tante cose, in realtà, ma io, diciamo, quello che mi ricordo con più trasporto sono sicuramente tutta la parte dei trattati che abbiamo per cui sei noto e amato ormai. Adesso so che qualcuno li apprezza, quindi non mi fermerete mai più, che abbiamo esplorato nelle loro limitazioni, soprattutto, che determinano in qualche modo quello che sta succedendo adesso. Quindi abbiamo visto come i trattati, in primo luogo l'Outer Space Treaty, e i meccanismi di evoluzione di questi trattati siano in qualche modo in difficoltà di fronte alla velocità con cui la situazione sta cambiando in questi anni. E ne abbiamo parlato parecchio. Andatevi, ovviamente non ritorniamo su tutti i temi, andatevi a risentire le podcast. Esatto, passate. Non è qui trattati. Esatto, in questo caso facciamo solo un po' di, come dire, vi mettiamo un pochino di curiosità, esatto, per coloro che si sintonizzassero in questo momento. Esatto. E abbiamo parlato anche, ed è un po' una conseguenza, degli accordi spaziali che si stanno sviluppando in questi anni, che hanno determinato una sorta di bipartizione del campo. Da una parte i filo americani, in qualche modo, che aderiscono agli accordi Artemis o Artemis, e dall'altra i filo cinesi, che invece si raggruppano sotto il laboratorio spaziale lunare, ILRS. Abbiamo parlato anche di un libro che si chiamava Off Earth di Erika Nesvold. Tra l'altro doveva essere un po' la nostra guida spirituale, ce la siamo dimenticata. Ce la siamo dimenticata esplicitamente, però in realtà ponendo lei le stesse più o meno domande che poniamo noi, alla fine l'abbiamo doppiata. Esatto, esatto. Il libro era Off Earth di Erika Nesvold, che avevamo detto all'epoca porsi le domande giuste, ma forse essere un po' carente nelle risposte, ti ricordi? Sì. Abbiamo parlato anche di space mining, quindi di sfruttamento delle risorse minerarie spaziali, in rapporto ai trattati e in rapporto anche alla situazione di questi anni. Lo space mining, abbiamo detto, è un tema ricorrente che continua a tornare sostanzialmente. Tra l'altro sarà probabilmente una delle prime applicazioni serie della space economy. Sì. Le proiezioni dicono questo. Ancora nessuno ha portato sulla Terra un sasso prezioso, per motivi economici ovviamente. Sassi preziosi scientificamente ne sono stati portati parecchi, però succederà, e abbiamo parlato della situazione ad oggi e dei problemi che pone, cioè di queste risorse di chi sono, in caso di conflitti chi li risolverà, e abbiamo elaborato questo tema. E poi nell'ultimo puntato ci siamo occupati della militarizzazione dello spazio, e quindi ne parlavamo poco fa, il ruolo di SpaceX, il ruolo dei trattati che provengono da un'epoca ormai superata e ponevano e pongono dei limiti ad armi di distruzione di massa che sono probabilmente a questo punto insufficienti. E abbiamo elaborato. L'abbiamo fatto anche, tra l'altro, aprendo la prospettiva a russi e cinesi, esatto, che sono i veri competitori in questo momento. Esatto, siamo stati bravi. Tra un po' anche la Corea del Nord, immagino. Immagino. Probabilmente loro ce la stanno mettendo tutta, vedremo. Sì. E quindi questo, secondo me, sono i temi almeno sono rimasti. Sì, non tralasciamo il fatto che qui e là, anche se l'abbiamo fatto soprattutto nella prima stagione di più, abbiamo accennato a pratiche cosmo-anticapitaliste, quindi anche a alternative di modi di accedere allo spazio con filosofi, con pensatori. In questa seconda stagione hanno avuto meno spazio. Ma forse torneranno in una maniera un po' più radicale, in una ipotetica terza stagione, esatto. Soprattutto se voi vorrete, se continueranno ad arrivarci delle bellissime mail come al solito di incoraggiamento, insomma, comunque se le persone continueranno a volerci un po' bene per questo tipo di programma. Oppure allora, lo faremo lo stesso da soli. In solitaria, contro tutti. Chi se ne frega. Allora, siete sempre all'ascolto, è un po' che non lo dicevo, di Boca Chica Cosmodrome. Trasmettiamo in diretta dal centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino di Roma, dalle frequenze di Radio Forte. Questa è Boca Chica Cosmodrome, dicevo, è un programma che si occupa di espansione del capitalismo nello spazio. Seconda stagione, che troverete nelle sue declinazioni, nelle varie puntate passate, sul sito del Forte Prenestino. clandestino nella slot della radio e nella slot specifica di Boca Chica Cosmodrome. A questo punto ci prendiamo un attimo di pausa con un piccolissimo e brevissimo brano e poi torniamo per le battute finali e soprattutto per la amatissima nostra rubrica Cuore Matto. E siete sempre in ascolto di Boca Chica Cosmodrome. Questa sera andremo leggermente un po' lunghi, ci perdonerete, ma d'altro canto nella prima stagione ci prendevamo due ore, in questa solo un'ora. Un'ora è troppo poco. Un'ora adesso, è veramente troppo poco, lo abbiamo sperimentato. La prossima sarà un'ora e mezza, Bimo, che dici? Sì. Sarà un'ora e mezza, beh, perfetto, insomma. Almeno. Allora, io ho il piacere di presentare una delle nostre rubriche più longeve, che è Cuore Matto, e a cura di Ray Max. La mia mente è uno dei misteri più grandi dell'universo, per citare David Lynch, uno dei misteri di Dio, diceva, della mente di Dio. Allora, innanzitutto presentiamo, ha un senso rispetto a quello che parleremo oggi. Intanto il brano, ho riproposto Zodiac Sheet di Flying Lotus, un musicista afrofuturista di Los Angeles, in realtà imparentato con John ed Alice Coltrane, quindi un pedigree di tutto un figlio, non d'arte. Solo un pronipote d'arte, era il bisnio, non come si può definire. Comunque è un musicista elettronico di Los Angeles che secondo me è interessante, e poi sapete che ogni tanto propongo l'afrofuturismo. E oggi parleremo di santi suona malissimo, santi e madonne nello spazio? Ecclesiologia spaziale. Perché in realtà mi sono trovato con una conferenza di Cobol un paio di settimane fa, dove parlava, no, di come in cielo così in terra, e parlava, guarda caso, del cosmismo di Fyodorov, e una persona mi dice, ma no, non ci credo che i cosmonauti russi, sovietici, ci sia questa deriva religiose, no? Teosofiche, eccetera, eccetera. Guarda, guardati un po' le foto delle navicelle spaziali russe di questi tempi. È un po' un volo un po' pindarico, però invito tutti quanti, se volete. Cobb sta già sbadigliando, perché lui queste cose ovviamente le no, andando, solo che sono un lavoratore. Sì, andando un po' a spulciare, non solo si può vedere come ogni lancio, da quando è caduto, no, l'impero, dal dissolvimento dell'Unione Sovietica, il nuovo potere russo, come sapete, associa molto alla narrazione della nazione, no? Dell'identità nazionale russa, associa alla religione ortodossa. Quindi ogni partenza di razzo da Baikur c'è l'arcivescovo ortodosso che cosparge, vestito, no, con i paramenti dorati, che cosparge di acque benedette il razzo e gli astanti. Il cappellano spaziale. Cioè, esattamente, esiste il cappellano spaziale dei cosmonauti. In Italia noi non abbiamo niente del genere. Siamo sicuri che l'ASI non abbia anche il cappellano? Io non lo direi. Non lo so, però siccome in Italia non abbiamo mai lanciato nessun razzo, quindi alla fine... Beh, magari benedici. Ma a parte il San Marco, noi abbiamo San Marco, quindi sempre santi comunque. No, abbiamo lanciato dei razzi, attenzione, no. Siamo io devo fare il patriottico, devo fare anche il patriota. Sempre il patriota devi fare. I Vega ultimamente scoppiano a mezz'aria, però sono lanciati, certo. Evidentemente bisognerebbe chiedersi, ma i Vega sono benedetti da qualcuno? Ah, dici che potrebbe essere la soluzione. Vabbè, no, ok. Oppure il problema. Risponderà. Devono cambiare il cappellano, dici. Comunque, secondo me, se dovessimo arrivare a una terza stagione di Boca Chica, quello che non riusciamo a pronunciare bene, Cosmodrome, mi dicono a me, ma non sono mai sicuro, si potrebbe anche parlare del come la religione viene usata dal potere, sia in un'ottica, diciamo, neoliberista, cioè nei vari agenti, no, della nuova e vecchia esplorazione spaziale. Secondo me ci sono vari aspetti, anche nell'ottica di come si pensa di colonizzare, quali valori portare nello spazio, e queste cose. Questa è una proposta, chiaramente, è un argomento molto, molto ampio. Tra l'altro tu sai che Nick Loso... dell'afrofuturismo, dell'afronautismo, il capo, comunque il fondatore dell'afronautismo era comunque cristiano, e prevedeva di mandare su Marte una ragazza, un gatto e un prete. È un prete. Però con la così. No. Però con la precisazione, da popolo colonizzato, che questo prete non avrebbe dovuto, cioè stava lì, sarebbe stata a disposizione anche dei marziani se l'avessero gatto. Ma lui non avrebbe dovuto evangelizzare nessuno, semplicemente era lì a disposizione. Quindi, diciamo, spiegava anche in che senso, cioè, che ne so, ho bisogno. Si preoccupava di quello che dicevo, accennavo prima, l'ecclesiologia spaziale, cioè, nel senso, lui avrebbe voluto che su Marte fosse arrivato, grazie al suo programma spaziale, prima di tutto il cristianesimo. Quindi. E poi anche quale cristianesimo, la domanda? In realtà è una cosa che, vabbè, piccolissima parentesi, ho 30 secondi, forse Cobol ti ricordi che Buzz Aldrin celebrò la comunione silenziosamente sulla Luna, e che c'era stato un episodio in cui, durante una missione spaziale, la missione precedente, cos'era, Apollo 14, quindi se non sbaglio, era stato il giorno del ringraziamento, c'era stata proprio una lettura di brani della Genesi, su cui poi dopo si era sviluppata una polemica, perché la capa, la persona che è alla guida del movimento per la propaganda dell'ateismo negli Stati Uniti, aveva fatto causa alla NASA e perse la causa, perché dice no, questa è una cosa che è avvenuta nello spazio, quindi noi sulla Terra non possiamo sanzionare un comportamento scorretto secondo la Costituzione, che però è avvenuto nello spazio. Forse vogliamo dire che gli Stati Uniti sono uno stato teocratico. E questo è interessante, però arriviamo, diciamo, arriviamo agli anni 90, alla adesso, giusto per dire due episodi divertenti, visto che un po' anche quello che possiamo fare questa sera, sono stati mandati dei santi nello spazio, ma dalla Russia. Cioè, il primo caso è una collaborazione tra la Chiesa ortodossa e quella cattolica nel 95, quando, come vi ricordate, c'era la guerra nella ex Jugoslavia, e quindi hanno pensato la Chiesa cattolica e quella ortodossa, e la Chiesa ortodossa russa e quella serba, di mandare delle icone di Santa Anastasia, o Anastasia a seconda di come viene pronunciata, che è molto molto, che ha molti devoti nell'Europa dell'Est, di mandare queste icone nello spazio e poi riportarle in Serbia, dove era stata dover di riportare le immagini in Serbia, il posto dove era stata martirizzata Santa Anastasia, per portare la pace in terra. Chiaramente non ha funzionato, perché no, abbiamo visto come in particolare appunto di Serbia e Kosovo il conflitto è andato avanti, se non sbaglio, almeno sicuramente nel 99, forse al 2000. Ma l'altro episodio che così un po', se vogliamo anche un po' divertente, le reliquie di San Serafino di Sarov, ritrovate nel 2016 a Mosca, erano state perse durante la Seconda Guerra Mondiale. Ritrovate dove? Per ritrovate così? In un negozio di Mosca. Nascoste, qualcuno se ne era vendute, qualcuno, no, qualcuno le aveva conservate e perse con tutto quello che era successo. Questo è anche, diciamo, forse comprensibile. La cosa che io ancora mi devo spiegare: come è venuto in mente di mandarle a farsi un giro nello spazio di 6 mesi a bordo della IS? Aveva uno scopo questo viaggio delle reliquie, come quel precedente? Infatti io quello non ho capito se era così, per turismo spaziale. Esatto, turismo spaziale delle reliquie di San Serafino di Sarov, che apparentemente è ritrovato, o per purificarle nello spazio, per purificare lo spazio. Questa cosa mi rimane assolutamente misteriosa, e su questa nota forse possiamo andare in dissolvenza anche noi nello spazio, perché mi ci sto scervellando da qualche giorno. Sì, rimaniamo con questo interrogativo. Basito. E soprattutto poi, che fine hanno chissà fatto? Chissà perché avrà un adesivo in cambio. Esatto. Fatecelo sapere sul nostro gruppo Telegram. Beh, mi mancherà molto questa rubrica, Cuore Matto, che non ho capito assolutamente di che cosa ha trattato durante tutte le 12 le puntate. Ha pure cambiato nome. Ma tra l'altro non ci doveva essere una sigletta? No, a parte la sua, ma doveva essere ripristinata una sigletta. Ti sei dimenticato una cosa fondamentale. Te ne avevo trovata anche una in cecoslovacco, ma non ha passato l'esame di Bimo. No, vabbè, ma Bimo ti sei dimenticato che schianto. Che schianto, sì, vabbè, quella non abbiamo parlato. Posso legarmi un attimo a Che schianto, perché c'è un altro episodio bellissimo. Intanto vogliamo dire che Schianto è stata bellissimo. La rubrica pioniere di questa seconda stagione. Eh sì, la rubrica che si occupava dei falliti allunaggi allunaggi privati in grandissima parte, e dell'inquinamento della Luna, a proposito, tra l'altro, anche con immagini sacre, oltre. Esatto, che... quindi ci sono anche state le immagini sacre sulla Luna, ma dirò di più, che c'è stato un caso, grazie a questo, ho scoperto che è stata data colpa ad un arcivescovo russo che aveva benedetto un razzo nel 2016, un razzo russo che doveva portare nello spazio un satellite Meteor M e altri 18 satelliti minori. Questo razzo è subito caduto a mare, e un famoso teologo russo ha incolpato l'arcivescovo, dice: la benedizione è andata a male. Aveva ragione, per me aveva ragione. Ed è insorta, bisogna la prendersi ortodossa, delle responsabilità. È insorta la Chiesa ortodossa, dice: ma come, noi benediciamo, però se voi mandate nello spazio delle macchine senza benzina, dice un altro, è un prete di campagna russa, dà la risposta secondo me più geniale: noi benediciamo, Dio benedice, e poi gli umani sbagliano. Allora, il nostro amico oggi mi è venuto a trovare un amico della radio, un amico della ciclofficina, Omino, e mi diceva che in realtà apprezza molto la trasmissione, ma lui ha più amato la prima stagione, adesso capisco perché. Va bene, siamo giunti alla conclusione anche di questa 12ª puntata eroica, davvero, grazie a Furia Elettrica per il suo contributo inestimabile. Bimo, noi siamo alla penultima puntata di questa stagione, la prossima sarà altrettanto particolare, avremo una graditissima ospite e parleremo di incredibili progetti. Di incredibili progetti che hanno avuto delle più credibili esatto, esiti. Allora, io prima di chiudere, lo so che non si dovrebbe fare perché stavamo in chiusura, però mi volevo ricollegare un'ultima volta a Remax dicendo: ma lo sapete che se potete trovare la stele della nascita di Michael Collins, quindi terzo astronauta dell'Apollo 9, a via Trastevere 16 a Roma, perché lo sapete? Lui era nato a Roma, no? Se a qualcuno non lo sapevo. Se a qualcuno interessasse, sì, la trovate lì, potete andarvela a spizzare qualora foste alla ricerca di un qualcosa da fare in un pomeriggio vuoto. Ma volevo dire di brividi spaziali. Comunque, vi ricordiamo che questa era Boca Chica Cosmodrome. Troverete tutti i podcast passati sul sito di Forte Prenestino, da cui stiamo trasmettendo in diretta. diretta, fortepronestino.net, nella slot di Radio Forte, nella slot di Boca Chica Cosmodrome, prima e seconda stagione. Noi vi rimandiamo alla prossima puntata, cioè al 4, e, quindi tredicesima e ultima puntata di Boca Chica Cosmodrome, e grazie di averci seguiti e buonanotte.